Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Me fa la vita meno amara, me so comprato sta chitarra, e quando il sole scende e muore, me sento un cuore cantatore. La voce è poca ma intonata, non serve a far una serenata, ma solamente. Ma oltre alla chitarra c'è anche Essere Benessere, per suggerire le strade per vivere meglio la vita. La puntata di oggi, cari amici, è proprio dedicata ad un tema che ci coinvolge tutti: come riconoscere, comunicare e utilizzare al meglio le nostre emozioni, che sono un po' il sale buono della vita. Le emozioni, l'abbiamo detto tante volte e lo tocchiamo con mano ogni giorno, svolgono numerose funzioni, ci consentono di adattarci immediatamente alla realtà esterna, stabiliscono il tono della nostra relazione con gli altri e di fatto ci preparano ad agire secondo le nostre motivazioni più importanti. A volte le emozioni viaggiano sulle note di una canzone e si fissano nella nostra memoria per sempre, proprio grazie a una canzone. Nessuno mai mi aveva detto quanto è difficile campare. Se qualcheduno mi avvisava, io mi potevo preparare. E nessuno di voi, degli amici del Daily Lab, potrebbe immaginare che questa canzone è stata scritta da un nostro esperto, che ho il piacere di avere oggi qui in studio con me. Do il benvenuto al dottor Francesco Aquilar, psicologo e psicoterapeuta cognitivo. Buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Dottor Aquilar, nessuno me l'ha detto che lei, oltre che psicologo, è anche musicista. Perché le due cose hanno in comune le emozioni. Le emozioni che possono essere espresse, raccolte e modulate attraverso la psicologia e anche la psicoterapia e anche attraverso la musica. Ecco allora che psicologia e musica si ritrovano proprio nel suo libro Riconoscere le emozioni, che contiene in allegato anche un CD con canzoni psicoterapeutiche. Certo, canzoni che attraversano i temi più importanti che vengono raccontati nella vita delle persone, suggerendo delle possibili prese di distanze da alcuni processi e dando anche un pizzico di umorismo quando è possibile. 800 24 00 24. Riconoscere le nostre emozioni attraverso le canzoni. Dottor Aquilar, fa anche rima. Potete come sempre seguirci su Facebook e su Twitter, ma potremmo proporre un esercizio ai nostri amici da casa. Raccontateci quali canzoni o quali musiche sono state le sigle dei vostri momenti più importanti. La canzone dell'innamoramento più bello, quella legata a una svolta importante della vita, quelle legate all'amore per il partner, per la mamma, per i figli, per la squadra del cuore, o quelle legate anche alla sconfitta: chi è stato lasciato, magari ha perso, deve ricominciare. Raccontateci quindi quali sono le vostre canzoni significative. Facciamo una sorta di hit parade emotiva legate ai momenti importanti, oppure quelle che attivano in voi anche emozioni positive, quelle che vi basta ascoltare per sentirvi subito meglio, per darvi la carica. E il dottor Aquilar proverà a spiegarne i motivi e i significati. Sarà capitato anche a voi di avere una musica in testa, sentire una specie di orchestra. Era la sigla del programma di Canzonissima nel 1968. Io ero piccola e questa canzone, nel riascoltarla, mi mette subito di buon umore. Dottor Aquilar, intanto chiedo agli ascoltatori se qualcuno condivide con me questa emozione, questa sensazione, questo effetto che la sigla di Canzonissima produce su di me. 800 24 00 24. Certamente, questa è una musica che energizza, che dà la carica, che aiuta a utilizzare quel motivetto che abbiamo nella testa come una fonte di entusiasmo, come una fonte di ricostruzione di una nuova giornata. Certamente per molte persone è così ed è una sigla che ancora oggi, a tanti anni di distanza, ancora dà la carica. Perché, dottor Aquilar, per molte persone la musica rappresenta proprio una compagna di vita e ci dà il passo. Per altre sono più attivate dalle immagini, altre ancora dai profumi. Sicuramente ognuno di noi ha un canale sensoriale preferenziale e quindi alcune persone hanno il canale della musica, che è un po' la colonna sonora di tutta la loro vita e soprattutto di alcuni momenti, con anche un lato negativo, perché per esempio quando sono tristi si nutrono di musica triste per affossarsi, mentre invece altre persone utilizzano un aspetto visivo o un aspetto olfattivo, ricordano un profumo di un evento, e tutto da emozioni. Quindi, dottor Aquilar, se un ascoltatore alla nostra domanda dici la canzone che tu leghi a un avvenimento particolare della tua vita, positivo o negativo, e si trova un po' sguarnito senza canzone, a quell'ascoltatore noi potremmo dire: allora prova a mettere una copertina a quell'avvenimento, dici che sensazioni ti ricordi, olfattive, tattili, giusto? Visive, gustative. Ognuno ha un suo senso preferenziale e vanno bene tutti. E noi vi aspettiamo. E ci ha raggiunto la nostra amica Roberta Giordano. Ciao Roberta. Ecco qui, vi raggiungo di corsa. Non ci sono le mezze stagioni in onda. No, guarda, basta vedere come è cambiato da ieri a oggi il tempo. Vedi? Nicoletta, hai visto? Sì, io sono ormai imbottita come un omino Michelin. Senti Roberta, volevo chiederti, tu sei più musicale, olfattiva, tattile? Io sono molto olfattiva, molto musicale anche insieme, diciamo, a volte sento anche l'odore delle canzoni in certi casi, metto insieme le due cose. E quindi ti devo raccontare un po' della mia colonna sonora, Nicoletta. Sì, perché noi vogliamo prendere spunto dalla tua colonna sonora per confrontarci anche con i nostri ascoltatori, a cui abbiamo chiesto proprio le canzoni, di stilare la loro hit parade emotiva, perché il dottor Aquilar dalla canzone tira fuori un profilo. Dottor Aquilar, ci proveremo. Quindi sta attenta. Mi metti un po' in difficoltà. Abbiamo quelle 7-8 ore per raccontare tutta la mia colonna sonora. Magari. Vabbè, cercherò di essere breve. Io devo dire che ho incominciato ad amare moltissimo la musica e a non poterne fare a meno, specie nei viaggi, viaggiando da bambina con i miei genitori su e giù per l'Italia. Abbiamo girato moltissimo con le mie sorelle. Ed era un po' questo nido viaggiante in cui i miei genitori poi mettevano sempre musica, ci facevano ascoltare sempre la musica, a parte i classici, Mina, Vanoni, Battisti, Patti Pravo. Della musica che mi piaceva moltissimo, mi faceva sognare, era per esempio quella di Bacharach, per me il più grande compositore contemporaneo, non so, The Look of Love, I Will Never Fall in Love Again, insomma, moltissime che... E tu le leghi ai viaggi? Le leggo ai viaggi perché era Roberta Giordano, piccolina, che viaggiava in macchina con i genitori e molto probabilmente i genitori mettevano la musica per farvi tacere un po'. Ah sì, e anche un po' per, forse anche per educazione musicale, e anche perché a loro piaceva. E devo dire che c'era una canzone invece tra la musica pop italiana che sentivo con molto piacere e già a 6 anni cantavo a memoria dall'inizio alla fine, che era Storia d'amore di Adriano Celentano. Tu non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai. In spiaggia ho fatto il pagliaccio per mettermi in mostra agli occhi di lei, che scherzava con tutti i ragazzi all'infuori di me. Perché? Roberta, anzi, no, prima di Roberta, dottor Aquilar. Mi colpisce molto perché sono due aspetti diversi della musica che hanno accompagnato Roberta Giordano. Perché da un lato Burt Bacharach è la musica morbida, è l'assenza di contrasti, l'assenza di note troppo alte o troppo basse, la delicatezza, addirittura l'assenza di parole, perché posso immaginare che una bambina non necessariamente capiva il senso dei testi che a volte si sono accompagnate alle musiche di Bacharach, mentre invece dall'altro lato la canzone di Celentano è tutta ritmata sui bassi. È come se lei avesse la possibilità di oscillare tra un momento di delicatezza e morbidezza e invece un altro in cui le piace avere il forte della vita in maniera gradevole. Roberta. Proprio una fotografia eccezionale ha fatto, proprio questo sono rimasta così effettivamente, Nicoletta. Poi crescendo, a parte ho sempre amato molto la musica italiana, però mi ricordo un periodo in cui stavo crescendo, vabbè, ero alla fine delle elementari, frequentavo un posto al mare dove c'erano tanti ragazzi più grandi, sui 18-20 anni, che si riunivano e cantavano con la chitarra, era più una cosa che si usava prima, no? Certo. E parlavano moltissimo di politica, mi dava la sensazione, la percezione di come i giovani di allora, poi l'ho capito soprattutto dopo, avessero ancora questa voglia di partecipazione, di politica, anche l'illusione di cambiare le cose. Mi ricordo una canzone in particolare, sì, che cantavano con la chitarra, che era Generale di De Gregori. Quindi siamo saliti dall'infanzia, questa è l'adolescenza. Questa è l'adolescenza o poco prima, in cui ammiravo questi ragazzi più grandi che si ritrovavano a suonare, a parlare di politica, che avevano mille progetti, insomma, poi non so bene come sono andate le cose per loro, un po' di disillusione sicuramente, però mi entusiasmava, vedere la loro energia, la loro voglia di fare allora, voglia di stare insieme. Poi, poi sono iniziati gli amori. L'amore, ecco, io voglio, qual è la canzone che tu leghi ad un amore? Guarda, fra le tante, per esempio, un'estate in cui ero, adesso non mi ricordo, meno che ventenne, però molto caratterizzata dall'ultima poesia, per esempio, di Marcella e Gianni Bella, sì, dava proprio il senso della poesia della dolcezza. E poi invece più da adulta, un momento di cambio forte nel mio percorso, diciamo così, amoroso, sentimentale, sono state due canzoni. Il bacio sulla bocca, per esempio, di Ivano Fossati. Ce l'abbiamo. Bella, che ci importa del mondo? Verremo perdonati, te lo dico io, da un bacio sulla bocca un giorno o l'altro. Ti sembra tutto visto, tutto già fatto, tutto quell'avvenire già avvenuto, scritto, corretto e interpretato. Dottor Aquilar, siamo passati da Celentano a Fossati e in mezzo? In mezzo c'è la storia di sviluppo di una bambina che poi diventa una ragazzina che guarda questi adolescenti più adulti, diciottenni, impegnati in politica, capaci di suscitare emozioni con la musica e probabilmente si innamora. E l'innamoramento poi si dischiude con il bacio sulla bocca cantato da Fossati. Quindi noi vediamo come lo sviluppo della persona tocca delle emozioni di attaccamento e quindi di ricerca di vicinanza, contatto e amore, tocca le emozioni di sessualità, cioè di attrazione seduttiva, di gioco piacere, di intimità, passione e impegno romantico e sociale, e anche l'idea di un'emozione di crescita verso uno sviluppo per tutti, verso un mondo migliore, diceva Roberta. Roberta, quindi ti abbiamo fotografata attraverso proprio tipo i tuoi gusti. L'ultima istantanea, non avrà tempo, dottor Aquila, ma ci passerei le ore a parlare con lui, a parlare con te. Poi l'ultima svolta, spero la definitiva, è stata Arrivi tu di Gianluca Grignani. Vediamo se... Se è la volta buona. Comunque, Nicoletta, io vi aspetto anche te, non ci sono più le mezze stagioni. Non ci sono più le mezze stagioni, ma c'è sempre Roberta Giordano che vi aspetta ogni sabato in onda alle 14. Grazie Roberta, grazie, un abbraccio. Un bacio, Nicoletta, un saluto a tutti, ciao, grazie. Giacomo, buongiorno, ci chiama da Roma, buongiorno. 800 24 00 24. Benvenuto. Grazie a voi di intrattenermi. Dunque, io veramente... questo argomento che voi trattate l'ho sempre approfondito perché sono sicuro che solo le parole, le immagini così non sono veramente quelle cose che ci scatenano le emozioni più profonde. In realtà io credo che le emozioni più ancestrali siano, e questa c'è una spiegazione anche fisiologica, sì, sono gli odori, l'olfatto, perché è il centro più nascosto del nostro encefalo. È un senso primitivo. Nella zona del sistema limbico, nell'ippocampo, quando è stratificato dalla tutta la nostra invece esperienza che trasforma le emozioni. In realtà poi io invece mi trovo a dire, come tutti, di una canzone che ho ascoltato e ricordo ancora con forte nostalgia il giorno del mio compleanno dei 18 anni, sì, in cui in mezzo a una festa di ragazzi mio padre e mia madre ballavano questa canzone, che era una canzone normale, insomma. Ma qual era? Era Margherita di Cocciante. Il fatto è che io ho passato subito dopo l'ultimo compleanno e poi mio padre non l'ho visto più, quindi questa immagine di serenità messa insieme alla nostra festa, di un'intrusione dei genitori in una festa di ragazzi, mi suscita tenerezza a distanza di 30 anni. Grazie Dai. Giacomo. È un'immagine molto bella, soprattutto rispetto al ricordo di persone che non ci sono più, e naturalmente lo struggimento non è tanto legato al significato della canzone o alla musica della canzone, ma al momento in cui questo si è svolto. Anche se c'è un inizio dove l'autore dice: io non voglio stare fermo con le mani nelle mani, che ci può accompagnare anche su altre cose della vita. Tenuto conto, dottor Aquilar, che lei diceva la musica accompagna molti di noi in tanti momenti importanti della vita, ma la musica ce l'abbiamo in testa dal primo vagito. Neppure il tempo di emettere il primo vagito che i neonati hanno già orecchio per la musica. È quanto scoperto dai ricercatori dell'Università Vita Salute San Raffaele, della divisione di neuroscienze, pubblicato su PNAS. Il cervello dei neonati sarebbe già predisposto a elaborare melodia e struttura musicale. Una dote innata che gli scienziati italiani, guidati da Daniela Perani, hanno individuato grazie all'utilizzo della risonanza magnetica funzionale, con la quale hanno esaminato l'attività del cervello in neonati di 24-48 ore di vita. Ai bimbi in fasce sono stati fatti ascoltare, attraverso piccole cuffie, brani di Mozart, Schumann, Schubert, Chopin, scoprendo che ad accendersi erano le aree dell'emisfero destro legate all'esperienza artistica. I risultati provano che già nelle prime ore di vita si attivano nell'emisfero destro gli stessi sistemi neurali presenti e attivati negli adulti, esposti da tempo alla musica. La riprova è che, sottoponendo i bambini all'ascolto degli stessi estratti di musica resi dissonanti o alterati nella struttura, non si attiva più l'emisfero destro, quello artistico appunto, bensì entrano in gioco strutture dell'emisfero sinistro. Bisogna avere orecchio. Insomma, dottor Aquilar, nemmeno il tempo di emettere il primo vagito che i neonati hanno già orecchio per la musica, e da lei vengono condizionati. E certamente, o aiutati. Vengono moltissimo aiutati, e tutto lo sviluppo del nostro cervello è favorito anche dall'utilizzo, dal consumo e, quando possibile, anche dalla produzione di musica, per cui diventa un modo anche di accrescere la nostra intelligenza, l'esperienza musicale. Abbiamo in linea con noi Mariella, ci chiama da Lodi, 800 24 00 24, pronta per la sua hit parade emotiva, chissà. Benvenuta Mariella. Grazie a lei. Un ricordo fortissimo della mia prima giovinezza è legato a Fabrizio De André. E ancora prima di Fabrizio De André a quella di Brassens. Mi ricordo che io ho studiato francese a scuola, sì, ma non l'ho studiato, con un insegnante terrificante che mirava a castrare gli alunni, quindi la lingua non l'avevo appresa. Sì. E mi ricordo che una sera, per caso, in radio, avevo ascoltato una canzone di Brassens, una canzone che parlava di un uomo che è diventato povero, a un certo punto ha preso una cattiva strada, poi è stato preso dalla polizia, messo in galera e dimenticato là. E questo le ha fatto un giorno è stato liberato e, vergognandosi, è ritornato nel quartiere dove era nato, rasente i muri senza alzare gli occhi, eccetera. L'ha colpita la storia o l'ha colpita la musica? Mi ha colpito le parole e la musica. Parole insieme. E musica, dottor Aquilar. E quello è proprio il bello della canzone, nella quale i cantautori italiani, ma anche i francesi, per carità, hanno una tradizione straordinaria, e dove l'emozione veicolata dalle note, dalla sequenza delle note e dalla sequenza degli accordi, ben si sposa con le parole che vengono raccontate. Nel caso della nostra amica Mariella, c'è a tanti anni di distanza un momento importante dove si tocca, nella canzone soprattutto di Brassens che lei nominava, il tema delle emozioni morali, della vergogna. Grazie alla vergogna questo signore si ripresenta finalmente al mondo. Prima si parlava con la Giordano del perdono, ed è il ritorno delle emozioni morali, che sono sempre più forti e sempre più utili in questo periodo, in sostituzione della vecchia emozione del senso di colpa, che ormai è un po' obsoleta. 800 24 00 24. Nel corso della vita i nostri gusti musicali, dottor Aquilar, cambiano. Proveremo anche a rispondere a un ascoltatore che mi ha fatto proprio questa domanda. Cambiamo noi o è fisiologico o patologico? 349-238-6666. Siamo su Twitter e su Facebook. Andiamo a sentire i mercati, poi il meteo e poi torniamo di nuovo qui con le nostre canzoni. A tra poco. Essere e benessere. Eccoci qua, come riconoscere, comunicare e utilizzare al meglio le nostre emozioni condite dalle note musicali. Qua con me in studio il dottor Francesco Aquilar, che è un esperto anche del nostro Daily Lab, psicologo e psicoterapeuta cognitivo. Abbiamo preso le mosse da un suo libro che io ho qua accanto a me, Riconoscere le emozioni, in cui appunto unisce parole e musica particolare, le canzoni psicoterapeutiche attraverso un CD che aiutano proprio a segnare quelli che sono i momenti importanti della nostra vita, che spesso sono segnati dalle musiche, dalla musica. Lo abbiamo toccato con mano anche dai racconti di alcuni nostri ascoltatori, a cui ce ne sono molti altri, daremo subito la linea. Perché, dottor Aquilar? Perché il ricordo che rimane di più nella memoria, come ricordo della canzone, come ricordo che resta indelebile attraverso il tempo, è quello collegato alla sigla di un momento di svolta. Lo ha detto Roberta prima, lo hanno detto gli ascoltatori. Ci ricordiamo un momento importantissimo di passaggio, perché quella canzone significa la nostra identità in quel momento e ci fa la fotografia di quella svolta, di quel momento, di quell'incontro che noi sappiamo ci cambierà la vita, e quasi sempre abbiamo ragione. Allora, dottor Aquilar, se la canzone può essere in qualche modo una fotografia, possiamo chiedere ai nostri amici da casa di regalarci la loro hit parade emotiva che ci segnala i loro punti di svolta, ma anche di rappresentarsi in questo momento con una canzone? Certamente, può essere un esercizio di aggiornamento. Noi lo facciamo in automatico sul nostro passato. Possiamo provare ad allargare la nostra mente facendolo sul presente. Se fossimo una canzone, oggi quale canzone sarebbe la nostra foto di identità? Naturalmente chiediamo di darci il titolo della canzone, ma anche di spiegarci perché. E il dottor Aquilar è pronto per assegnare un libro, Riconoscere le emozioni, con il CD. A quale ascoltatore, dottor Aquilar? A quello che le racconterà meglio la sua identificazione con la canzone? Io direi a quello che ha fatto una fotografia più emozionata del suo momento, perché il nostro tema è le emozioni. Paolo, dalla provincia di Monza e Brianza, Loretta da Bergamo e Sara da Bergamo. Paolo, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Buongiorno, io vorrei fare a mia moglie Lucia gli auguri di buon compleanno oggi, ricordando la canzone che è stato un po' il motivo del momento in cui ci siamo conosciuti. La canzone era Il Dio Serpente, suonato da Fausto Papetti. Esatto, speriamo, sì, che la moglie di Paolo sia all'ascolto, dottor Aquilar. E Paolo ha ricordato una canzone che fotografa il loro incontro romantico, leggermente sensuale, con le note del sassofono di sottofondo e con un'emozione che prende l'intestino, la pancia e tutti gli organi più vitali, quindi molto carina. Un po' serpentone. Molto serpentone. Molto serpentone. A Paolo auguri. Loretta, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno a voi. È un piacere parlarvi, vi ascolto sempre. Brava Loretta, così mi piace. Grazie. Vada. Io ho un fermo immagine veramente che mi porto avanti ormai da tanti anni. Ho in mente quando seguivo mia figlia che faceva le gare di nuoto, di agonismo, e ho in mente la canzone L'amico è, mentre tutte le squadre sfilavano sul bordo vasca nei loro sorrisi e accappatoi colorati, e ora quando ci ripenso mi crea ancora emozione, ma è strano perché voglio dire ho vissuto tanti momenti nella mia vita, ma questo è una cosa proprio che spesso mi ritorna alla mente. Grazie Loretta, quindi Loretta ha detto un fermo immagine. È un fermo immagine importantissimo, è proprio un momento di svolta, è quando Loretta vede sua figlia che diventa adulta. Ed è incredibile perché il momento in cui i nostri figli diventano adulti è quando abbiamo svolto il nostro compito. Ecco perché è un esempio di una musica per le emozioni di accudimento, la musica che ci racconta quanto vogliamo bene a qualcuno che è più piccolo di noi o che in quel momento è più debole o in difficoltà. Fermo immagine, come ha proposto il dottor Aquila, raccontateci ora la musica, la canzone, il brano che vi rappresenta. Il dottor Aquila è pronto a regalare Riconoscere le emozioni all'ascoltatore che darà la descrizione più emozionante. Sara da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, sono Sara da Bergamo, grazie della compagnia. Grazie a lei, Sara. Allora, io volevo dare la mia esperienza. Durante la mia prima gravidanza ho visto il film La leggenda del tennista sull'oceano e la colonna sonora mi ha accompagnata durante il travaglio che ho fatto da sola, che è stato un travaglio molto tranquillo, insomma mio marito se ne dormiva tranquillamente a casa e questa musica... Non a caso lei lo ricorda, Sara ha aggiunto questo dettaglio, il dottor Aquilar vedo che scriveva, quindi la leggenda del pianista sull'oceano ha accompagnato il travaglio di Sara mentre il marito dormiva, grazie Sara! La musica e la letteratura sono una grande consolazione. Ci aiutano nel momento in cui non ci sono proprio vicino a noi per tanti motivi le persone che vorremmo avere, e questa colonna sonora aiuta a far scorrere il tempo senza soffrire, che è un'altra delle funzioni straordinarie della musica, fosse anche il travaglio preparto. Ma dottor Aquilar, la musica e le canzoni possono anche aiutarci a prendere le distanze dalle emozioni negative. E possono farlo in diversi modi. Lei ha fatto scuola e dopo di lei uno psichiatra modenese e uno psicoterapeuta bolognese hanno pubblicato un libro disco per l'edizione La Meridiana che si intitola La psicantria, cioè la psicopatologia cantata. In linea con noi abbiamo il dottor Gaspare Palmieri, buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Sì, psichiatra e dottore di ricerca in psicobiologia dell'uomo e insieme a lui anche Cristian Grassilli, psicologo psicoterapeuta all'ospedale privato Villa Igea, Selicetta San Giuliano, in provincia di Modena. Buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, abbiamo detto che la musica può aiutarci a vivere e ripercorrere anche delle emozioni negative o a superare anche delle situazioni che sembrano più che un fermo immagine, bloccarci proprio una prigione. Sentiamo prima un piccolissimo estratto di una canzone perché senza sentire questa non possiamo capire di che lavoro hanno fatto i nostri autori. A tra poco. Oggi che non ho un soffitto come cielo, l'orizzonte non è nero, ti scrivo, cara depressione, questa notte ti ho sognato che mordevi, denti lunghi conficcati nei miei giorni, infiniti e grevi. Ti ricordi quando mi incolpavi sempre, il tuo indice puntato sul passato e sul presente? Cara oggi ti concedo il mio perdono e alla porta ti accompagno come un vecchio maggiordomo. Ciao, cara depressa, ti saluto da lontano e vado a Rio facendoti maramè. Dottor Palmieri. Cara depressione, tratto proprio dalla psicantria, com'è nata questa idea e come le canzoni aiutano e possono aiutare a superare o a vivere con maggiore positività, se il termine me lo passate, questa situazione? Ok, sì, il progetto nasce dall'incontro appunto fra me, che sono psichiatra e cantautore, e Christian Grassilli, che è psicoterapeuta e cantautore. È stato un incontro fortunato perché ha dato vita appunto a questa opera, quindi sì. Nasce sia dalla nostra passione per la musica e anche per la passione per il nostro lavoro. Mm. Abbiamo pensato di metterci insieme a scrivere queste 13 canzoni che raccontano, diciamo, tutto lo, quello che noi chiamiamo psicomondo, cioè il mondo della, della malattia e del disagio psichiatrico, con degli intenti soprattutto informativi e di aumento della consapevolezza, insomma, per coloro che sono interessati a questo argomento. Diciamo che non ci arroghiamo proprio il diritto di interventi terapeutici con queste canzoni, perché chiaramente sa, la depressione non è una cosa... No, ma cosa possono fare? Una persona che sta vivendo un momento di depressione o una fase di depressione, che cosa può, come può utilizzare il... Ma alcune vostre... di queste canzoni pongono il problema in termini un po' di sdrammatizzazione. Noi crediamo che la sdrammatizzazione e anche a volte l'autoironia, che facciamo anche proprio con noi stessi come operatori, possono essere degli strumenti preziosi a volte per sbloccare delle situazioni che magari si sono un po' inchiodate. Dottor Palmieri, stia lì anche il dottor Grassini, perché andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade e poi ritorniamo subito dopo insieme, a tra poco. Essere e benessere. La psicopatologia cantata. In linea con noi abbiamo il dottor Gaspare Palmieri e il dottor Christian Grassilli, che hanno creato un progetto molto interessante. Abbiamo ascoltato un breve estratto di Cara Depressione. Dottor Grassilli, voi avete due voci che, no, dottor Aquila, siete stati anche fortunati non solo a condividere questo progetto, a essere musicisti, ad andare d'accordo, ad avere due professioni che si integrano, psichiatra e psicologo, ma anche di avere due voci che si sposano bene. Ma sì, abbiamo due timbriche vocali, direi quasi agli antipodi, penso che Gaspare ha una voce molto più cavernosa, mentre io sono un po' più limpido. Questo sicuramente ha un... diciamo, ci ha divertito anche in fase compositiva per fare dei controcanti e dei cori, e è stato un risultato che ci ha appagato, e anche Guccini nella prefazione sottolineava come ci fosse una voce appunto più adulta e una più simile a un coro di voci bianche, come l'ha descritta. Io vorrei sapere, ma questo vostro progetto come pensate poi di utilizzarlo? Ma intanto lo stiamo utilizzando facendo, come diceva Gaspare, dell'educazione, perché no, anche della prevenzione, e incuriosendo anche chi non è interessato o non vive direttamente appunto questo tema, il problema della malattia mentale. Quindi andiamo in associazioni di pazienti, abbiamo fatto qualche lezione all'università, alle scuole superiori, quindi parliamo con i ragazzi, magari facciamo alcune canzoni nelle quali loro, come dire, esplicitano un po' più i loro problemi, quindi per esempio più legate alle dipendenze, certo, o anche alla gestione dell'impulsività. Per adesso le stiamo utilizzando in questo modo, non è detto che qualcuno possa, noi adesso per primi non l'abbiamo ancora fatto in terapia e non erano gli intenti del progetto, però utilizzare queste canzoni come appunto un momento di riflessione per ottenere quello che si può chiamare un distanziamento critico poi dal malessere e condividerlo magari anche durante una seduta di psicoterapia per integrare altri elementi che magari non sono... Perché la musica in questo senso diventa, è un facilitatore, dottor Aquilar. Certo, può aiutare appunto, come diceva Christian Grassilli, a prendere le distanze da alcuni aspetti e a volte anche dalla depressione, anche se naturalmente la depressione, come segnalavano gli autori, è una cosa serissima e va presa con il massimo impegno. Nelle fasi più leggere di depressione che tutti possiamo attraversare sono sicuramente utili alcuni momenti di distanziamento critico. Salutiamo allora il dottor Palmieri e il dottor Grassilli, grazie per essere state con noi e complimenti per questo progetto che mi è piaciuto molto. Grazie a voi, saluto. saluti a tutti. Buona giornata. Buona giornata. Marcella e poi Gigi. Marcella ci chiama da Milano all'800240024. Speriamo che ci dica la canzone che la rappresenta. Marcella, buongiorno. Buongiorno. Allora, dunque, io diciamo che non ho una canzone in particolare, diciamo che fin da piccola ho sempre sentito e ascoltato musica, magari anche invece di andare in cortile a giocare, perché la mia epoca era ancora quella del cortile. Sì. Ho una migliore memoria musicale rispetto a una memoria, diciamo, normale, e ho cantato musica rinascimentale barocca per 20 anni con mio marito, tant'è che quando ho aspettato i miei figli mi mettevo le cuffie sul pancione per far sentire loro la musica, e devo dire che ha funzionato alla grande. Vede, lei ha sentito l'estratto della ricerca che abbiamo letto, tratta tra l'altro da Salute 24, proprio come fatta dal San Raffaele, che dimostra che i neonati piccolissimi, 24-48 ore di vita, hanno già orecchio musicale. Chissà i bambini di Marcella, esposti alla musica per 9 mesi, che orecchio raffinato. Marcella, adesso suona il violino. Vede, brava Marcella, la saluto e la ringrazio, perché devo dare la linea a Gigi da Firenze e poi a Francesca da Bologna. Gigi, rapido, buongiorno. Buongiorno. Siamo qua. Sì, no, volevo raccontare la mia esperienza. Bravo. Forse non è proprio attinentissima, però al momento del parto del mio secondo figlio, a cui assistevo, nel giorno del mio compleanno, del mio 30° compleanno, la filodiffusione in sala parto, appena nato Nicolò, sì, mandava una canzone dei Rolling Stones che si chiama Time is on my side. A me mi vennero i brividi, perché il fatto che il tempo fosse dalla mia parte il giorno in cui a 30 anni esatti nasceva mio figlio, sì, mi colpì molto. Una coincidenza straordinaria. E ancora una volta legata a un momento topico della vita, che è la nascita del figlio, e quindi qualcosa che ci cambia la vita per sempre. Grazie a Gigi. Francesca, buongiorno, ci chiama da Bologna, 800 24 00 24. Intanto, scusi Francesca, approfitto, alcuni ascoltatori stimolati dall'intervento del dottor Palmieri, del dottor Grassilli, sulla cara depressione che abbiamo sentito, che fa parte di questo manuale di psicopatologia cantata, mi dicevano come ci si informa anche in modo più rigoroso e scientifico. Allora io ricordo, e l'avevamo già presentato tante volte, che il dottor Francesco Aquilar con Maria Pia Pugliese ha scritto un libro un po' più per dei lavori, che si intitola Psicoterapia cognitiva della depressione, pubblicato da Franco Angeli, e rimando gli ascoltatori che mi hanno scritto un messaggio per chiedermi qualche cosa di più rigoroso, scientifico, questa versione. Francesca, mi scusi, se no non facevo più in tempo. È caduta nel frattempo. Allora, dottor Aquilar, intanto i nostri ascoltatori hanno ancora qualche secondo per fare il fermo immagine e raccontare la canzone che in questo momento, quindi lavorando sul presente, li rappresenta. A lei quale canzone rappresenta in questo momento, dottor Aquilar? È difficile, perché forse mi può rappresentare proprio la canzone di Palmieri e Grassilli, che è un modo di dire ciao alla depressione stagionale che spesso affligge le persone e che chiude molto bene prendendo le distanze. Allora vi aspettiamo su Facebook per la canzone che più vi rappresenta. Grazie dottor Aquilar, non a domani, a lunedì. Buona giornata.